I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Vi parlo dal buco più nero della storia d'Europa. Vi parlo dai binari della ferrovia che fino a 75 anni fa portavano qui migliaia e migliaia di ebrei condannati a morte. Vi parlo dai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau, nel cuore di quella stessa Europa attraversata ora da una nuova ondata di antisemitismo. My mother understood. Mia madre capì che gli uomini avrebbero avuto più chance di sopravvivenza. Lavorano, sono forti, servivano agli interessi dei tedeschi. E le donne, i bambini, chi ne ha bisogno? Probabilmente saremmo andati nello stesso treno, ma verso destini opposti. Così mia madre, all'ultimo secondo valido, mi scaraventò lontano, via da sé. E gridò a mio fratello: Tulek, prendi il bambino, abbi cura del bambino. E mi gettò fuori dal treno, un treno proprio come questo vagone, senza finestre. L'ultima immagine che ho di mia madre è lei che ci guarda dal treno, senza poter dire una sola parola. In mezzo a grida, cani, spari. Lei che ci saluta con la mano. Ecco, questo è quanto ricordo dell'ultimo secondo con mia madre. Nel vento gelido di Auschwitz indica con la mano il treno il rabbino Israel Lau alla guida del consiglio dello Yad Vashem, un treno proprio come quello in cui lui ha visto sparire la mamma. E questo vagone, col filo spinato e senza aperture, ora 75 anni dopo la liberazione del più grande campo neonazista, sembra trasportare tutte le preoccupazioni di un continente che si ritrova di nuovo a fare i conti col demone dell'antisemitismo. Perché in Europa, The situation is worrying. Scandisce la vicepresidente del Parlamento Mario McGuinness, la situazione sta peggiorando soprattutto per le comunità ebraiche. The Fundamental Rights Agency has found that almost half of young Jews have been the victims. L'agenzia per i diritti fondamentali ha registrato che metà dei giovani ebrei è stata vittima di attacchi antisemiti, talvolta anche violenze fisiche, persino in scuole o università. E la tragedia è che molte altre non vengono neanche segnalate. Per questo è così importante parlare, e su questo l'Europa ha bisogno di parlare all'interno e all'esterno. Più volte le istituzioni hanno ricordato di combattere ogni forma di linguaggio d'odio, compreso quello online. Nel 2018 gli stati hanno adottato una dichiarazione per combattere contro l'antisemitismo e decisero per un approccio comune per proteggere al meglio gli ebrei in Europa. Proprio davanti a questi orrori nacque l'idea stessa di Europa, eppure ora, proprio lungo i binari che portavano alla morte, davanti alle montagne di scarpe con cui erano partiti chissà da dove migliaia di persone, davanti a questo sandalo col tacco che aveva infilato chissà pensando a cosa, una giovane donna poi privata della sua stessa dignità, ora, davanti a tutto questo freddo di Auschwitz, si riscoprono ancora più cupe le ombre del presente dell'Europa. Dalla Germania non poche famiglie hanno pensato di partire verso Israele dopo l'attentato di Halle e l'ascesa delle destre nell'ex Germania dell'Est, come ci racconta il rabbino di Lipsia. E dalla Francia la storia di Mireille Knoll, raccontata dalla nipote Karen, dimostra come si possa essere sopravvissuti all'Olocausto, ma comunque uccisi oggi per la propria fede. My grandmother survived the Holocaust thanks to her father's Brazilian passport. Mia nonna è sopravvissuta all'Olocausto grazie al passaporto brasiliano di suo padre. I was 7 when my mother told my nanny. Hanno vissuto in Portogallo, Brasile e Canada e poi tornati in Francia. Avevo 7 anni quando mia mamma informò la mia babysitter che non avevamo più bisogno dei suoi servigi perché stavamo per trasferirci in Israele. That she was living with a Jewish E la mia babysitter polacca aveva 23 anni quando si rese conto che stava vivendo con una famiglia ebrea e si infuriò con mia madre e le chiese come fosse possibile che fossimo ebrei, visto che eravamo normali. By people who've been raised believing. L'antisemitismo è concreto ed esistente ogni giorno in mezzo alla gente. Mia nonna aveva 85 anni quando fu uccisa da un vicino di casa, un terrorista musulmano al grido di Allah Akbar. Fu accoltellata 11 volte e poi data alle fiamme. Mia nonna è scampata all'Olocausto, ma è stata comunque uccisa perché è ebrea. Survived the Holocaust, but was still murdered. For being Jewish. La storia dimostra che possono portare fino a qua le parole d'odio. Possono portare fino a questa distesa infinita di capelli che adornavano un tempo il viso di migliaia di donne a cui furono poi tagliati nel campo di Auschwitz per diventare materiali e tessuti. Il vento d'odio può portare fino all'aumento degli attacchi contro i politici tedeschi che accolgono i migranti o anche agli attacchi contro gli stessi stranieri, spesso usati come scusa dai populisti europei, mette in guardia Oliver Brady della European Jewish Association. È una scusa che i populisti stanno sempre a utilizzare. C'è una piccola verità, diciamo, nel senso che c'è una migrazione dai paesi che sono in guerra praticamente con Israele da tanti anni, che c'è un certo curva esponenziale dell'antisemitismo che sta crescendo. Però l'antisemitismo per sé è un export europea che ha 2000 anni di storia europeo. È di utilizzare immigrazione o la migrazione verso l'Europa come scusa, è una male scusa per combattere la radice. La radice è uno che si trova in Europa da anni e che si deve combattere in Europa tra e al di dentro della comunità europea, chiunque siano le persone. Camminiamo sul campo coperto di ghiaccio e un insolito sole di gennaio illumina il funesto messaggio all'ingresso del cancello di Auschwitz, Arbeit macht frei. Il vento gelido taglia le facce e non si può non pensare, seguendo l'invito di Liliana Segre, a quale freddo dovette patire chi si ritrovò all'improvviso qui. Si copre il viso mentre cammina insieme a noi anche Jonathan Langer, che fino a qualche tempo fa era Lutz Langer ed era neonazista, uno dei 12.700 tedeschi che secondo le forze dell'ordine sarebbero pronti anche alla violenza. Ora invece gira con la kippa in testa, si è trasferito a Tel Aviv e racconta la sua storia che dimostra come sia facile iniziare ad odiare. Ich war 10 Jahre in der Neonazi-Gruppe und Io sono stato 10 anni in un gruppo neonazista. È stato tutto un percorso. Ho avuto un'infanzia normale. Sono nato nell'ex Berlino Est. I miei genitori cattolici non sono neonazisti. Tutto è cominciato dopo l'adolescenza, quando ho iniziato a praticare karate. All'inizio era solo il piacere di stare insieme dopo lo sport. Poi arrivò anche la musica, una precisa musica, che incitava a certi pensieri e noi ci esaltavamo a quelle parole. Eravamo orgogliosi di avere questi CD che altri non potevano ascoltare e guardavamo film che inneggiavano alle SS come eroi per la loro capacità di schiacciare i più deboli. Questo senso di esclusività rafforzava l'appartenenza al gruppo. Trovavamo nel gruppo la risposta ai nostri problemi, a cominciare a chi non aveva lavoro. Abbiamo cominciato così ad alimentarci di odio. Eravamo sempre più convinti che noi eravamo nel giusto, che negli altri, a cominciare da chi ci appariva diverso, c'era la colpa dei nostri problemi. Eravamo una decina. Il nome del nostro gruppo era Vigrid, epiteto mitologico. Ed eravamo molto ben collegati anche con tutti gli altri gruppi neonazisti. Lutz, divenuto Jonathan, è perfettamente consapevole di quanti altri ragazzi come lui, in Germania e non solo, nutrano questi sentimenti antisemiti, che lui ha iniziato a superare all'università, quando ha cominciato a farsi delle domande, quando si è avvicinato agli studi umanistici, quando ha scoperto, ci racconta, il valore della tolleranza e dell'inclusione. Jonathan, che un tempo era Lutz, ora chiede perdono e prova anche a perdonare se stesso. Ma mentre cammina, con la kippah in testa, insieme ai sopravvissuti dell'Olocausto, nel luogo simbolo dell'orrore nazista, diventa lui stesso la dimostrazione di quanto concreto sia il vento dell'odio, ma pure dell'importanza dell'educazione. I nostri nemici erano tutti coloro che non erano tedeschi o coloro che potevano mettere a rischio la razza. Quindi, innanzitutto, quanti mescolavano etnie diverse. E poi, ovviamente, gli ebrei, ma anche le persone di colore, anche le persone di sinistra. Cercavamo cimeli del Terzo Reich. Andavamo in giro con uniformi nere, pantaloni di pelle. Non riuscivo a distinguere tra l'amicizia e l'ideologia. Volevo guidare quel gruppo. E allora il nostro desiderio, il desiderio dei gruppi neonazisti, era di rifondare le SS e il Terzo Reich. E per compiere delle azioni abbiamo pensato a tutte le varie possibilità. Innanzitutto a come avere accesso alle armi. E quanto agli obiettivi da colpire, eventualmente, pensavamo agli effetti che l'azione potesse avere. Ho fatto il servizio militare e mi sono laureato. A quel punto ero il leader del gruppo. Ero laureato. Ho cominciato a mettere in dubbio tutto questo all'università. È allora che ho iniziato a farmi delle domande sulle mie convinzioni. Si credevano i più forti perché tedeschi. E allora? Solo i tedeschi devono esistere? A quel punto ho cominciato a trovare risposte dalle fonti più impensate. Ho cominciato a studiare letteratura. All'università ho cominciato a riflettere sul tema della responsabilità, dell'inclusione, ma anche della compassione. Aber es hat sich dann nämlich ergeben. Una storia incredibile, quella di Lutz, divenuto Jonathan Langer, ex neonazista, divenuto ebreo. Una storia che racconta molto anche delle insidie dell'antisemitismo di oggi. E da qui ripartono tra pochissimo i racconti di Storiacce. I racconti di Storiacce. The only one question is how to transmit the knowledge of evil. Come trasmettere la conoscenza del male assoluto, identificato con questo cancello, con questo filo spinato, con questi camini e con la consapevolezza di tutto quello che qui è avvenuto, qui all'interno del campo di Auschwitz-Birkenau fino a 75 anni fa. Come trasmettere la conoscenza da sempre è stato il principale interrogativo dei sopravvissuti, come Marek Halter, che qui ricorda ora Primo Levi o Simone Weil, con cui era tornato altre volte, in qui, in fondo al buco nero della coscienza d'Europa, con la consapevolezza che il male può essere altrove, può essere altre sembianze, ma può conservare le stesse insidie. E allora come trasmettere la conoscenza del male? Perché anche la storia di Lutz Lang, che abbiamo sentito nella prima parte, il neonazista che per 10 anni ha desiderato di rifondare le SS e ha alimentato l'odio contro gli ebrei per poi rinnegare quelle convinzioni, anche quella storia conferma quanto già i numeri dimostravano: solo all'interno della Germania il vento dell'odio è tornato a soffiare. Aggressioni, ma anche accoltellamenti e omicidi. Dal 2015 in Germania c'è stato un incremento di reati riconducibili a quell'area dell'estremismo di destra che nell'intero paese, secondo le stime della polizia, conta 12.700 militanti. Tra i gruppi neonazisti, Atomwaffen-Division, Old School Society, Combat 18, Gruppe Freital. In forte aumento, soprattutto le violenze contro esponenti politici, 1.256 solo l'anno scorso, e la maggior parte, 517, riconducibile all'estremismo di destra, 222 invece di sinistra. Tra i casi peggiori, l'attacco alla candidata sindaco di Colonia, Henriette Recker, da parte di un estremista di destra. Poi, nel luglio dell'anno successivo, la strage di Monaco. Ragioni xenofobe spingono un uomo ad uccidere 9 persone prima di suicidarsi. In quello stesso anno, anche un poliziotto è stato ammazzato da un estremista di destra trovato in possesso di armi illegali. È stata invece la politica di accoglienza verso i migranti la causa dell'accoltellamento del sindaco di Altenaer. In un crescendo di violenza tra il 2018 e il 2019 si sono consumati gli episodi più cruenti. Un omosessuale torturato a morte da neonazisti in Sassonia, un politico della CDU, Walter Lübcke, ammazzato con un colpo di pistola alla testa nello stato dell'Assia da Stefan Ernst, terrorista di estrema destra. Proprio come Stefan Balliet, che a Halle, in Sassonia, dopo aver tentato un'irruzione nella sinagoga, ha ucciso 2 passanti. Un quadro preoccupante, soprattutto perché non solo tedesco. In modo più o meno grave e più o meno palese, l'antisemitismo è infatti tornato ad essere una realtà per molti paesi europei. Lo è in Francia, come la cronaca drammaticamente ha confermato. Lo è in Italia, dove una sopravvissuta di Auschwitz come Liliana Segre è costretta alla scorta e dove spesso l'antisemitismo si nasconde anche nei social, denuncia Ruth Dureghello alla guida della comunità ebraica di Roma, al microfono di Elisabetta Fiorito. Si sta trasformando, sta cambiando il modo in cui si manifesta, si rappresenta sui social o in forma di fake news o in forma di negazione e diventa oggi sempre più esplicito, quasi sfacciato il modo in cui si rappresenta. Quindi non parlerei tanto di ritorno, ma di riemersione dell'antisemitismo. Che cosa si può fare per evitare che ci sia un antisemitismo così forte anche in Italia? Innanzitutto continuare nella educazione, nella cultura, nel trasmettere alle giovani generazioni il senso di cosa è stato realmente la Shoah, ma di ciò anche che l'ha preceduta, perché non è stato un episodio isolato della storia catapultato in un certo momento. Ci sono stati dei momenti di preparazione, delle decisioni prese a tavolino, una propaganda, la creazione di un clima contestuale di odio un po' come quello a cui assistiamo in questo momento, che dobbiamo assolutamente gestire, controllare e soprattutto saper riconoscere. Quindi educare i nostri ragazzi a tutto questo è già uno strumento iniziale per costruire gli antidoti. Dall'altra parte, visto che il fenomeno appare in maniera sempre più forte e più evidente, che si manifesta anche nei luoghi della società civile, dagli stadi alle conversazioni nei bar, bisogna saper reprimere con gli strumenti normativi che abbiamo a nostra disposizione, dalla Costituzione alla legge Mancini, all'aggravante del negazionismo. Sono tutti quanti di strumenti di cui ci siamo appunto dotati e che le istituzioni debbono ovviamente garantire vengano applicati. E allora si comprende come il rabbino di Lipsia, Zsolt Balla, competente anche su Halle, la cittadina della Sassonia, teatro dell'attentato contro la sinagoga, ci parli di un vento internazionale e di un allarme che spinge in questa parte di Germania alcune famiglie ebree a pensare di lasciare il paese. Leider brauchen wir einen Schutz, aber gleichzeitig ich wünsche mir ein Europa. Purtroppo abbiamo bisogno di una protezione. Vorrei che non solo qui, ma in tutta Europa, noi potessimo vivere la nostra fede senza pericoli. Questo è un problema globale. Noi viviamo in una comunità di stati e tutti insieme dobbiamo prendere atto che negli ultimi anni ci sono stati molti attentati contro le sinagoghe da parte di gente armata. È una tendenza in atto nel mondo e noi dobbiamo prima di tutto riconoscere questa tendenza. Tutti noi, a cominciare dagli stati europei, dobbiamo ammettere di avere un problema, che è l'estremismo di destra. La comunità europea deve comprendere che anche se sono gli ebrei ad essere minacciati, alla fine tutti ci ritroviamo feriti. Dopo l'attentato di Halle, ma anche dopo le elezioni in Sassonia, Turingia, Mecklenburgo, molti anche della mia comunità hanno detto di non voler restare qui, ma di trasferirsi in Israele. Ma non è questa la soluzione. Non possiamo sempre scappare. Noi desideriamo un'Europa in cui nessuno debba essere in pericolo per la sua fede. Questo vaso di Pandora è stato aperto da precisi fattori, a cominciare da un certo populismo e da una certa demagogia. Pandora's Büchse wurde geöffnet, wo bestimmte Sachen. E Ma esiste un paese dove gli ebrei si sentano più a rischio che altrove e al contrario esiste un paese dove si sentano più sicuri? Non vuole fare una graduatoria Menachem Margolin, rabbino capo che guida la European Jewish Association a Bruxelles, ma sulla base di alcune precise coordinate fissa un termometro. How does the Jews in Europe feel? Does it feel safe? Does it feel secured? Gli ebrei si sentono sicuri? Si sentono ben voluti e accettati? Oppure devono pensare di avere una valigia pronta per partire in caso d'emergenza? Quello che per me è importante è sensibilizzare e mobilitare i governi europei ad agire il più possibile e il più velocemente possibile, perché gli ebrei in Europa si sentano sicuri. È importante che i governi lottino contro l'antisemitismo ed è importante che riconoscano lo Stato di Israele. Questi sono per noi i criteri per valutare gli stati europei. Dove ci sono in Europa oggi queste condizioni? Country by country, who does give these five criteria? Where in Europe those five conditions are promoting only today? La nostra azione oggi è volta ad aumentare l'informazione e la conoscenza dell'Olocausto e la messa al bando di ogni espressione antisemita. Questa è già una grande sfida. We believe that this will be a game changer. Davanti al nuovo vento di odio che soffia anche sulla vecchia Europa, allora si ritorna alla sfida dei superstiti a 75 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz, ossia consegnare la storia alle nuove generazioni, perché se comprendere è impossibile, conoscere, avvertiva Primo Levi, è necessario perché ciò che è accaduto può ritornare. Così nel vento di Auschwitz la citazione dei sommersi e i salvati obbliga ad immaginare occhi, volti, destini dietro ogni scarpa, dietro ogni paio di occhiali, dietro ogni capello, dietro ogni valigia qui ammassata, perché finalmente, liberati dai numeri, nella memoria tornino ad essere uomini tutti coloro che qui sono morti, come Victor Ullmann, come Gideon Klein, come tutti gli altri musicisti ebrei uccisi in questo campo, ma sopravvissuti con le loro note, ora diffuse da un pianoforte e portate nel mondo dal vento gelido di Auschwitz. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra, in regia Carmelo Lauricella. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate in podcast, il sito è radio24.it. Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce. Ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account @RaffCalandra.